America 24 di Mario Platero. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24, si apre una nuova settimana, un po' di tensione dopo quello che è successo la settimana scorsa per via della crisi greca, per il fatto che la borsa a New York la settimana scorsa ha perso oltre il 5%. E davanti a una situazione di tensione, di contagio, di paura, le aste a New York la settimana scorsa hanno stabilito nuovi prezzi record. Come mai c'è questo contrasto? Di questo ci occuperemo anche nella nostra trasmissione. Vi anticipo che oltre di crisi questa settimana si parlerà di Chrysler. L'amministratore della Fiat Sergio Marchionne sarà a Washington giovedì per illustrare i suoi progressi al congresso americano. Hey, well, right, sir, here we go, there I am, you gonna give me phone? I'm bidding 25, will you give me $30, 30, make it a 30, bid the 30, 35. Now, proprio giovedì, quando l'indice Dow Jones è precipitato di 1000 punti per poi recuperarne altri 700 in una giornata caotica e convulsa, in quella stessa giornata la casa d'aste Christie's ha battuto il nuovo prezzo record per un'opera d'arte, per un quadro di Picasso. È stato venduto per 106,5 milioni di dollari, al cambio attuale 82 milioni di euro. Cos'è questo quadro? Beh, come vi ho detto, un quadro di Picasso, titolo Nudo, foglie verdi e busto. E io trovo che sia un quadro straordinario. Intanto è stato così secretato in casa dei proprietari di questo quadro, la famiglia Brody, una famiglia californiana, che era talmente innamorata di quest'opera d'arte che non lo faceva vedere a nessuno. Lo ha dato in prestito soltanto una volta, quando ci fu l'80° compleanno di Picasso, e dunque stiamo parlando di alcuni decenni fa. Lo hanno acquistato nel 1951 per $19,000, lo hanno venduto per 106,5, gli eredi, la famiglia. Perché questa coppia, Francis Lasker Brody e suo marito, non volevano separarsi da questo quadro, erano talmente innamorati che se lo tenevano sempre nel loro salotto. Poi gli eredi hanno deciso di venderlo. Il quadro è stato dipinto nel 1932, rappresenta il ritratto dell'amante del pittore, Marie-Thérèse Walter. Il pittore fa un leggero profilo di se stesso in una tenda blu sullo sfondo, e c'è anche un busto, così un busto greco, che però rappresenta sempre la Marie-Thérèse Walter, che dà l'idea della classicità. Una composizione straordinaria sia per i colori che per la straordinaria sensualità di questo quadro e per la forza, l'energia che emerge. E Picasso ha dipinto questo quadro in una sola giornata, quindi è stato proprio il frutto di una grande ispirazione, e questo spiega perché è andato a questa cifra. Thank you. Ma la settimana scorsa è stato battuto un record anche per un'automobile, una Bugatti del 1936. È stata venduta, sempre a un'asta, per quasi 40 milioni di dollari, cifra incredibile. È stata acquistata da un collezionista anonimo, la casa d'asta è la Gooding & Company, quindi più sconosciuta ma specializzata in aste di auto. L'auto era della famiglia del dottor Peter Williamson, che era un neurologo di Yale, e aveva deciso di collezionare così auto d'epoca. Poi anche lui è mancato e i figli, gli eredi, hanno deciso di vendere. Bene, di tutto questo, di questa situazione di contrasto, da una parte la crisi, dall'altra prezzi record delle aste, parliamo con Dino Zevi, un mercante d'arte fra Londra e la Svizzera, che è a New York in questi giorni proprio per partecipare alle aste. Dino, qual è l'atmosfera? Da una parte abbiamo la crisi e poi abbiamo visto prezzi record. Cosa succede? Come mai? È un fenomeno interessante, perché molto spesso i due mercati si muovono in direzioni opposte. Un esempio era per esempio il crollo della Lehman. Lo stesso sera a Londra, alla Sotheby's, c'è stata la famosa asta di Damien Hirst, che è stato un record assoluto di vendite, soprattutto per un artista contemporaneo. Una cosa simile si è verificata la settimana scorsa, quando appunto nel mezzo di un periodo, diciamo, non molto roseo nei mercati finanziari, si è visto invece il record assoluto di un'opera d'arte in una vendita pubblica, cioè il Picasso della collezione Brody. Ecco, un Picasso peraltro straordinario, cioè un quadro veramente bellissimo, che non si vedeva. Sì, è un quadro che appunto i proprietari non hanno mai voluto prestare, era conosciuto perché è un quadro famoso, ma in verità non era mai stato visto. E questo naturalmente aiuta e aggiunge all'interesse che si sviluppa intorno ad un'opera del genere quando viene messa in vendita. Beh, però la composizione di questo quadro, il fatto che sia di quest'amante che così è molto lasciva, buttata all'indietro, lui che ha fatto il suo profilo sulla tenda, il busto, i colori, il fatto che l'ha dipinto in un giorno, grande ispirazione, ecco, tutto questo fa un'opera d'arte? Beh, certo, nel caso specifico di questo quadro ha in sé degli elementi molto importanti, c'è la scultura, c'è un richiamo, quasi un omaggio a Matisse, come dicevi appunto tu, un quadro molto grande, molto scenografico e di un periodo, gli anni 30, all'inizio degli anni 30, un periodo molto raro, quindi un quadro di grandissima qualità e molto difficile poterne trovare un altro. Quale sarà il quadro eccezionale in vendita questa settimana? Forse un quadro della collezione di Michael Crichton, la bandiera americana, il tricolore americano di Just Jones. E che stime ci sono per questo quadro? Le stime sono abbastanza basse, mi sembra che sia intorno a, non so se 10-15 milioni di dollari. Beh, insomma, la portata di tutti, Dino, 10-15 milioni, no? Sono... Ma ormai, come si dice adesso, il 10 milioni di dollari di adesso è il milione di dollari di 10-15 anni fa. Ho capito. Beh, Dino, mi fai sentire poverissimo. Le opere rare, l'inflazione sia stata molto, molto forte in questi anni. E quindi è un investimento sicuro, un investimento nelle opere d'arte? Adesso, al di là di queste cifre, se qualcuno comprasse dei quadri a cifre più accessibili? L'investimento non deve essere il primo criterio nell'acquisto dei quadri. È chiaro però che un quadro, un'opera d'arte di grande qualità mantiene quasi sempre sta al passo di tutti gli altri investimenti. Non si investe in arte, però in verità alla lunga l'arte è sempre stato un ottimo investimento. Ecco, attorno a queste settimane delle aste poi ci sono attività di vario genere, per esempio ho saputo che c'è stato l'architetto Richard Meyer che ha presentato un suo programma, c'è Gagosian che ha fatto la settimana scorsa dei party. Puoi raccontarci cosa succede attorno a questi eventi a New York? Ci sono due grandi mostre, una di Monet in una delle sue gallerie a Chelsea e stasera si apre invece alla Madison Avenue una mostra di nuovi quadri di Richard Prince. Hai parlato di Richard Meyer, è interessante che proprio la settimana delle aste Richard Meyer presenta un suo nuovo progetto a Tel Aviv, proprio alla Sotheby's durante la settimana delle aste. Bene. Dino, grazie mille e good luck con The Auctions. Molte grazie. Grazie, ciao Dino. Come avete sentito da Dino Zevi, ci sono poi una gran quantità di eventi attorno a queste aste newyorkesi, mostre di ogni genere e soprattutto nuovi artisti che cercano di emergere. Uno di questi si chiama Fabian Peña e per lui l'arte si traduce in scarafaggi morti. Va in giro per il mondo, ha un piccolo spray, se vede uno scarafaggio gli fa uno spruzzo addosso, lo scarafaggio muore, lui lo mette in un contenitore di vetro e poi usa tutti questi scarafaggi per fare dei quadri, delle sculture, delle composizioni, una cosa che io trovo, vi confesso, disgustosa. Qual è la giustificazione di Peña? Dice, ma come mai gli scarafaggi? Beh, dice che a lui gli piace molto questo insetto perché secondo lui è molto simile all'uomo. Dice che ha lo stesso gusto nei cibi, per questo alcuni se lo ritrovano in casa, e ha lo stesso livello di adattabilità. Gli scarafaggi, ha detto in un'intervista, sono una testimonianza della nostra vita quotidiana. Guarda te cosa non si fa per campare, per un artista. E poi altro artista originale, Levi Van Veule, è un artista dei Paesi Bassi che sta esponendo in questi giorni a New York e ha trasformato il suo volto e le sue spalle in una specie di serra, in una specie di terreno fertile su cui riesce a far crescere muschio, erbe, foglie e fiori. Quindi lui stesso diventa opera d'arte e si vede questo volto così coperto di muschio, ma muschio vivo che letteralmente gli cresce addosso. L'opera fa parte di una collezione che è composta da 4 pezzi, il cui titolo è Landscape, cioè panorama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. E arriviamo alla canzone del giorno. Quest'estate a New York esploderà una grande serie di concerti nei parchi della città. Succede sempre, decine di cantanti, gruppi attesi nei prossimi mesi. Uno degli ospiti più interessanti sarà Rufus Wainwright. E all'inizio dell'estate americana dedichiamo la canzone del giorno, Matinee Idol. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Banca Fideuram, generazioni di valore, vi ha presentato America 24.